chi c'è l'ascolto? Canale 10, 123, 123, 123. Marco, io non ti sento più, se mi stai ascoltando io non ti sento più. Marco, non ti sento più io, sei sparito. Sei sparito, non ti sento. Beh, sei arrivato a fatta, no, non ti sento io. Cosa hai detto? Ora 1-2, 1-2, prova radio, faccio. Come? 1-2, prova radio, cambio. Va bene, vai, ciao. Stavo. C'era Marco, è sparito. C'è pure un baracchino. Un 3 watt in macchina, e arrivi da ottava e è sparito. E poi non so che dire, sono acceso adesso io. Oia, oh Marco, io già ti ascolto, ma sei bassissimo. Radio 2, segnale 2. Prova a impostarle qualche battuta. Non lo senti, Claudio? Per niente, non arriva per niente. Già era basso a ottava. È sparito, Io che è più. Non sento io qua. Non arriva. Colpa sua, non colpa mia. Prova a cambiare postazione d'antenna, magari. Fatta il traverso del mare è immobile, olio, la stampa. Beh, il vento non c'è. È colpo col vento che c'è, vento di terra, poi mi pare che abbia dato anche sciocco la prossima settimana, quindi sicuramente sarà un tempo bello. Va bene, cappa. Bene, mi ascolti tu, io la patavola, ma sei qua, forse se ne c'è qua. No, ma io mi sento, sono io che non sento a lui. È sparito, ha fatto. Era Santiago 5, ottava. Come ha superato ottava, è sparito. Non lo so, non c'è un orario, io mi trovo sul disco. Beh, stamattina si tratta a prendere il caffè. No, sono andato a fare una tua commissione. È quella da linea di legna, sì. No, adesso non si fa la legna di spugna. Gava. Va bene. No, infatti non sono sceso, ho preso il caffè qua a Piazza Vecini, poi ho fatto il cane e sono andato a casa, ho fatto due cosette a casa. Io sono passato accostato che mi devo portare la roba e poi sono andato via, ma proprio 10 minuti dopo il fuggio. Se era accostato potevi salire a prendere il caffè. Claudio, poco fuggio, so che vuol dire, mi ha aperto il cancello, gli ho fatto una correttina e me ne sono andato. Ciao, va bene, poi a casa, no? Mi chiamavi e sono andato a farci caffè. Poi sono uscito a mezzogiorno 10, Santa dello Spino, fare un po' di spese, poi siamo andati a Conad, prendo del pane e niente, poi mi sono trovato a casa. No, te lo dicevo, non te lo muovere più tanto, capito? Dimmi, ma sei, la cupa è Santiago Longo. Sei stato la matta dell'invaria, ma non te ne accorta ci avevi. Cosa ha cambiato da Santiago 0 a Santiago 7? Mi sembrava strano. Poi hai fatto Santiago 2 a Santiago Longo. Bene, va. Mi sembrava strano, ho detto, a non sentirti neanche con 3 watt, ti ho sempre sentito. Santiago 7, sì, adesso. Tu mi ascolti bene, sì? Marco, dove faritici? Non tocca il PL, come mai? Ah, così è. Ah, te lo rapi lo gomo e quando esci in macchina metti il superstar, metti un apparato serio. Con tutti i baracchini che c'hai, mi esci in macchina, andate in giro con un baracchino da 3 lire. Ah, io Marco, e metti il superstar, metti il 5005, metti una radio seria, già ne hai. Ma quali c'hai, quei PL piccoli, corti? Allora è per quello che tocca o non tocca. Ciao Marco, ciao da voi, ciao. E quindi Massimiliano, non devi andare da nessuna parte. E poi adesso sta facendo i compiti qua, io non lo so se. Sì, devo salire per forza, me lo viaggio un po' tra l'altra macchina, grazie. Ah, ciao. Quello non la metti lì a cosa? Ottava. No, non lo metto ottava, è troppo caro. No. Ma io sono sceso a porto se. No, quando è ieri. Sei a produttore, c'è quello fornitore che c'è in varie città di un supermercato, in via delle vigne. Sì, la Conad. Sì. Immaginate che il piano da 147, se lo faccio qua a Sassari è 80 euro. 65 euro ho fatto il pieno. Perché quando devi fare il pieno così non conviene andare a Sassari. Ho fatto il pieno, l'aria è troppo, fammi il pieno, così non sto. Metti e va tutto il mese, hai capito? Gappa, io. No, io ho messo la piccolina, ma quella adesso mi fa Armenia, e lì a Porto Franco, allora c'era il vigno, però no, puoi portare. Ma con lei non arriva, cazzo, fuori in testa, quello che devo andare a pagare prezzo d'oro. E a noi prima ci avevamo i buoni, capito? Oltre i ticket avevamo anche i buoni benzina e li hanno eliminati perché non conviene più all'azienda, capito? Non conviene più, troppo costerò. Sì, poi magari stai sempre girando, no? Controllando dove costa di meno, magari ti fermi dove costa di meno, ti fatto 10 km, ti prendi un rifornitore dove costa di meno e ce li hai messi in benzina. Sì, ma infatti è così. Così eravamo i buoni prima, poi non per tutto il mese, invece poi li hanno eliminati e hanno fatto le carte di credito, capito? Ci abbiamo le carte di credito sia della Kuwait che quella dell'ACIP. Sì, quella l'ho tolta perché il prezzo sicuramente è salito e quindi va di arrangetevi. Sì, beh, però sì, no, non conviene più. Non conviene, capito? Se sono quelli che vai al fornitore, presto è uno, poi vai all'altro e presto un altro, invece no, ho fatto così, no, da sempre, ma se no oggi muri nulla la usciata lì. Giustamente. Io che vagava, comunque non era, non volo sole e non volo giù, ma ci stanno volando tutte. Una bellissima giornata, sono uscito anche in moto. Però c'è il freschetto adesso. Diciamo che stamattina c'era il sole, però già era un po' ventosa, no? Sì, un po' ventilata la mattinata, però era piacevole. Io c'avevo magliettina maglia corte con il bottino mezzo estivo, capito? Stavo benissimo, perché sono uscito a camicia di un botto estivo, c'avevo caldo. Allora sono rientrato, ho messo una magliettina leggera, un po' maglia corte e giubbottino estivo. E sono uscito in macchina tranquillamente, si stava a Rame Caraibi. Meglio così. Dammi 2 minuti, che mi non danno un secondo, Guardo nel piccolino e poi rientro. Vai, sono qua, io sempre in agguato. Sì, Marco, sono qua, Massimiliano si è sentato un attimo. Guarda, l'ha messo in Santiago 3, mentre con la 3 Santiago 7, vedi tu la differenza. Ciao, comunque ti sento, non c'è problema. Ho crisi di macchina, chiama, ok. Ciao Marco. E così è. Io va bene. Che? Oh, è nata lì. Dove sì? A casa. Ma vai. Davvero? Marco è a Portamoa. Dettatelo io, visto è nata lì. Cazzo, Santiago 9, sì. Santiago 9. Cerca di metterla bene. La piazza da quant'è? Quant'è grande la piazza che avete messo sotto? Oh, e l'hai messa fuori però. Hai visto? Te l'ho detto. Non c'è da fare. Io ce l'ho Natalina alla finestra e ricevo tutti, capito? Dentro non va bene. Adesso stai andando benissimo. E quanto c'hai di stazionarie? Aumentala appena, metti le 5, 6 watt. Appena aumentala. Santiago 9 sta arrivando, la radio è perfetta. La radio è perfetta, Santiago 9. Ascolta, quindi l'hai messa fascettata, cosa hai fatto? L'hai messo il barilotto, così è. No, sei perfetto. La radio è perfetta, non ha rumori, non ha niente, inneschi. È perfetta Natalie, perfetta. Vedi, ma come mai la corretta? Perché fuori, anche se c'è un ostacolo, anche se c'è qualcosa, però fuori l'antenna irradia meglio di dentro, capito? Vabbè, però hai migliorato dal giorno alla notte e dalla notte al giorno, capito? Adesso ti sento bene, adesso arrivi benissimo qua. Vabbè, anche se sono più modulatore, però ti ripeto, adesso secondo me puoi dare anche un pochino più di potenza, non naturalmente tanta, però una decina di watt glieli puoi dare, capito? E va molto bene, senza attaccare il doppio modulatore. E così va bene, io ti ascolto, perfetto. Sì, 8 con picchi a 9. Santiago 8 con picchi a 9, hai recuperato 2 segnali. Per aggiudito Natalie, non c'è bisogno di fare grandi cose. Anche l'antenna della macchina, se è piattata bene, fuori, eterna, funziona a grande di samanna, a tutti i dini. Non c'è bisogno di fare nessuna modifica. Va bene, va bene. E arrivava a basso anche qua, accetta tutto e non tocca nulla. Kappa kappa. E sempre bene vai. 8-9, 8-9. Kappa. Non tocca nulla. Così quando rientra Marco è contento, è preoccupato per queste tue missioni radio. E cosa c'è? Non so, ma è successo, un processo. Allora sì, cosa sì, la punta scorda. Parlatore sì, ma ora sì, sotto l'albero dei fichi. Sì, bacino sì. Bacino sì, mi fa lì. E così a pompa già. No. E così già cambiano sì. Già va bene. Ma freddo c'è, o ancora ci sta bene? C'era il sole, sono uscito dal buongiorno. Non c'è né sole né niente. Sono neanche le 6. No. Ma sicuramente ci sarà umidità stanotte, un po' di freschizzolo. Io mi c'ho la finestra aperta, sono con una magliettina leggera. Stamattina addirittura sono vista maniche corte e poi con giubbottino estivo. Poi c'ero la camicia maniche lunghe e c'era caldo. Però adesso sicuramente per dopo, per portare il cane ci vorrà un giubbotto più pesante. Ma se tu non chiami io sono all'ascolto, non è che tu devi sentire, devi chiamare e io ti rispondo come ho fatto adesso. Io sono qua seduto alle 5, figurati, anche prima stavo parlando con Marco che è andato a Platamona, faccio la passeggiata, c'è Natalino che stava mettendo a posto l'antenna, capito, è entrato Massimiliano e siamo qua. Io ci sono sempre, vale. Se tu chiami io ti rispondo, a meno che non sia dall'una, cioè dalle 2 alle 3:30, 4, allora no, ma dopo le 4:30 io ti rispondo, le 5 io sono già seduto qua. Bene, FM si spara sì, alla grande, però a me non mi piace, no? Devi squelciare, perché sennò è un casino, questo rumore è allucinante, capito? Devi squelciare, magari metti lo squelch, entra qualcuno più basso, ma lo senti, fino alla tua scatola, vale, capito? Ehi, vale, va bene. Io sono qua fino all'ora di cena, tanto non ne sono fatte neanche stasera. E domani c'è una visita, quindi devo rimanere un po' a digiuno. Va bene, dai. Buon fine serata, buon fine domenica a te e alla famiglia. Se cucini a dopo, altrimenti a domani. Ciao. Ciao Vale. Attento Marco. Cosa? Vabbè, Marco. Aspetta, sta lì, messo a posto, Oh Marco, scappa. Natalino ha messo l'antenna fuori come gli ho detto io. Ok, Santiago 9 arriva a casa, immaginati quanto arriva a te. No, li ha controllati anche con lo strumento della radio, non ne ha stazionali. La messa diretta, non ne ha messo piastrami. Ha messa diretta l'antenna. Staccata dalla base magnetica, capito? Messo il barilotto col contro per avvitare il PL. L'ha attaccata a un tubo e l'ha messa fuori. No, vabbè, ci vuole un rosmetro, vattimetro come Cristiano, io questi dettaggino per me non sono strumenti affidabili. Però dai, va bene, non c'è nessun rumore, niente. Con 3 watt, mi pare 4 watt, arriva a Santiago 9, ha dei picchi da 8 a 9. Aspetta, parlando Marco, l'hai sovramodulato. Cazzo ti ha sovramodulato, dimmi Natalino. Ehi Giulia, una bomba sì, non tocca nulla, stazione non ne hai, guarda se senti Marco. Sicuramente c'è un'antenna piccola. Ti supera Marco, tu sei Santiago 7 con quei 6.000, lui è da 8 a 9, con una radio bellissima, senza nessun problema. Cosa? Chi è che ha parlato? Pinocchetto il Moro, dove sei? Oh, ciao Pinocchetto, a Budusò sì. Ciao, ben ascoltato, vai, un po' bassino arrivi comunque, Santiago 5 sì. E la radio è che passa, il segnale già può anche andare. Vabbè. Piano piano, lì ci vuole un bel microfono, capito? Comunque segnale 5, da Budusò. Una vita che non ti sento. C'è Natalino qua a Sassari, ma intanto non lo senti anche Marco. Vabbè, come lo t'appoggio. Un bel microfono amplificato che non c'è, ci vuole, perché il segnale è buono, 5 sta arrivando la Budusò. Va bene, ok. Natali, vieni avanti. Natali, veramente ti ascolto come cristiano. Vabbè, microfono tienilo anche attaccato, non c'è problema. Hai dei picchi da 8 a 9, meno male. Finalmente. Avanti Marco, lo senti, basso ma lo senti, hai visto? Basso ma lo senti, vedrai quanto ti arriva a casa tua. E lui a me non mi dava retta, l'antenna vuole fuori, anche quella della macchina è fatta per stare fuori, capito? Anche se l'antenna della macchina, già lo sentivo dentro, se tu la metti fuori è chiaro che migliori, no? Finalmente, gappa, gappa. E l'antenna lunga quindi l'hai messa nel cofano? Ho capito, ho capito. Sì, più stagno per aderire di più l'ingresso del PL. Ho capito, va bene. Cerca di non metterlo in corto, perché devo bruciare la punta. Ok. Avanti Pinocchetto, il Moro. Pinocchetto si è allontanato. C'era Pinocchetto da Bordeaux, stava arrivando. Ho sentito sotto Natalino. No, a me non devo stare con l'orecchio sopra il altoparlante per ascoltare Natalino. Ah, Maghido, carità, per carità, volevo sentire. Ehi, Avi, non c'è. Ti ascolto, basso basso arrivi però, non c'è il radio, prova. Sempre uguale, sì. Sempre uguale, a piede mancato guscio, le sadrae, quello lì c'aveva più potenza e poi la radio era un bel forte, il Pinù, capito? L'MS200 già esce bene, però non va radio, non va radio, se radio ci vuole, devi cercare di aumentare la radio, Pinù, se no non ti sento, Segnale buono, ma radio non ne hai, gava gava, cosa stavi dicendo Marco? Che questo Rosmet uguale, quello c'è in macchina. Sì, ti ho capito, evidentemente quella radio c'ha il connettore PL che è più stretto rispetto, più corto rispetto agli altri. E vabbè, può succedere Marco, dai. Capito? Ma era un baracchino di vecchia generazione e c'ha questi attacchi così. Ah, nuova generazione. Come mai? Si è nato difettoso? Ah, ecco, ho capito, ho capito. Quindi magari in quel contesto lì gioca leggermente il PL. Vabbè, in quell'antenna grande le dai appena appena più di saldatura alla punta, in modo che entri un pochino più pressato e non si muove. Baracchino canna larga c'hai. E vabbè, ho un baracchino figlio di prostituta, là. Guarda, in quella posizione lì al brico ma stai arrivando più basso di Natalino con l'antenna corta. Troppo piccola è quell'antenna, con quella grande meno arriva fino per 20. Vabbè, natural service, così è. Natalino sta ritirando la roba, dai. Chiavi, chiavette, pinzette, cacciavitti, capito? Tenaglie, fascette, tutto. Mimi, ma lo senti Marco? Comunque hai visto che seguendo il consiglio di Claudio uscite molto bene. Notte una fortinuta Natali, non deve ridere nessuno. Sì, condizioni precarie, però l'antenna andava messa fuori. Perché hai rischiato, cazzo, di rimetterci il baracchino. Lascia tutto così, che c'è una favola. No, 201 l'ho detto Marco, non lo smetto così. Ce l'avevo anche io, l'avevo regalato, poi non mi ricordo manco a chi. Non me lo ricordo chi l'ha volato, forse a Franco, boh. Non me lo ricordo, forse a Franco l'ha volato, lo stesso assieme agli altri cose. Però non è affidabile Natalino, non ti fidare, bisogna rosmettrarlo, lo dice a Marco magari, e te lo rosmetterà lui con quello suo. Vai Marco. Ehi, Apinù, ti sento, però la radio non è migliorata, quello ce l'ho io, il modello 700, ce l'ho io Marco. Avanti Apinù, ma la radio è un pochino più forte, ma il segnale è sempre uguale, Apinù c'è. Amore, abortate, stava parlando Apinù c'è il Moro, la mazza te ne varia. Ho Gianni doppio root. Cos'hai detto Apinù? Ma spingeva, non lo so. Vabbè, comunque se 5 di segnale, 5-6 di segnale, la radio però è bassina, che non capito. Va bene, ciao Gianni doppio root. Senti a Natalino a vedere se ti piace come sta uscendo, che l'abbiamo fatto mettere l'antenna fuori nella finestra. Cazzo, mi sono accorto che c'era dietro, c'è il silenzio completo, non si può niente. A parte Natalino, vediamo un po' come la... no, aspetta che non abbia il referì chiuso. È 8, da 8 a 9 qua già. E allora, ci sono le referì in aperto. È aperto. Sì, così mi ha riparato. E magari se verso di te più aperto, no? Boh, non so. Non lo so. Comunque, va molto molto meglio, molto molto meglio alla grande Nattarino. Dai, c'era anche Marco ed è sceso. Aspetta che abbasso le VHF, c'è le VU, c'è gente che sta parlando. A Pinocchetto non lo senti già? Pensavo che ci fosse nessuno, ho acceso, ho sentito che c'era silenzio, ho chiamato, capito? Non pensavo che ci fosse niente. Pinù, lo senti a Gianni Doppio Roma? Si è invece allontanato. Aspetta che mi svegliano le V e le U in modo che non diano fastidio. Avanti Natalino. E Natalino sta facendo cose lì che sta mettendo a posto. Praticamente gli ho detto ieri, metti l'antenna fuori. Capito, io ce l'ho con una piastra in ferro sopra la finestra nel marmo e c'ho una bimbanda a voi, ma sento tutti, arriva anche Alghero, figurati, non ci parlo perché non mi interessa parlarci, però con una radio che c'ho in più, 780, l'ho attaccata lì e funziona bene, se invece la metto dentro già non sento niente e quindi ho detto prova a mettere la tua esterna, la tua della macchina fuori come ho fatto io, vedrai che vai meglio, così ha fatto, mi ha migliorato tantissimo, è fatto bene col barilotto per connettare il BL, è fatto bene, va bene lo stesso Natali, va benissimo lo stesso, non c'è problema. Dici no, quello è da fare Natali, però ti ripeto, adesso vai molto meglio, hai migliorato tantissimo e sei anche più insomma presente, dai, con Santiago così va bene, non ti puoi fidare così con l'antenna sul frigo Natali, come fai a fidarti, cioè? L'antenna sta irradiando dentro casa, nelle mura, non esce, il segnale ti rimane in chivi e c'è il rientro di RF, mentre invece è fuori e già l'antenna sta irradiando, capito? Cosa gli hai messo l'interruttore? L'hai chiuso, l'hai messo dentro una scatola? Ehi, ho capito. E perché quello è il rumore? Io ce l'ho distante, se no si sentirebbe, capito? Avanti già. Vabbè, ma adesso va bene, adesso è presente, dai. Ma già, devi spazio a Santiago 7, 8, a volte arriva anche a 9. Secondo me come parla, gli dà dei picchi così. Qua è da 8 a 9 pieno, è micidiale con la radio, e ce l'ha a bassa potenza, ma lo mettiamo l'antenna bene, lo vedi come esce da lì. Tira sul Mickey Gay, Natalia, a vedere se sa toccare altro, solo il Mickey Gay, prova, forte, va bene, lascia le usci, non fischia, niente, sì, perfetto, va, sono contento, almeno ti sento bene, possiamo chiacchierare, in che da maniera era un casino, figurati, avanti chi fischia, cosa hai perso, il cane, l'uccello, cosa hai perso? Va bene, e quindi già, sta a posto? Noi anni c'erano Marco e Maurizio, a pranzo. E adesso Maurizio si è andato via e ci è rimasto Marco. Gappa. Ok. Va bene. Ok. Vabbè, poi ieri ci ho pensato alla fine. Ho parlato con mia moglie, alla fine potevamo anche uscire, vabbè, poi si è fatto tardi, si è abbigliandoci. Comunque settimana se hai voglia di uscire, così andare a farci un giro, lì ma l'ho capito. Sì, allora, ci organizziamo. C'è problema. Sì, chi è? Pinocchetto. Cosa? Il segnale è sempre uguale, Pinocchetto, però la radio è sempre bassa. Non è alta. Io ti sentivo molto meglio prima, un po' in fase d'abbandono con la tua stazione. Non senti manco a Gianni, che avanti già. E io ero molto in giro, via. Ce ne siamo andati con Sottone, su Plattamona, si stava aperta. C'era, sono arrivati anche fino a 18 gradi. Stava veramente bello sul mondo. Sì, sono uscito anch'io stamattina, cioè, con quella grande. Si stava bene, però poi nel pomeriggio, vedi, di rientrare prima di quest'ora, perché già c'è umidità, non c'è sole, non c'è niente, e c'è un po' di freschetto, infatti adesso chiudo la finestra. No, si stava benissimo, si stava benissimo. Io stamattina, prima di uscire, lo stava fatta, mi sono acceso di un secchio di acqua, un po' di plasma, sono tutta pulita bene, sono fatta lucida. Intanto il plasma per scegliere un po' la sporcizia e poi c'è passato l'acqua, è diventata, sembra facendo la lampada. E poi me ne sarà finita in modo. Io sono stata a città mercato perché c'era un contratto della team che è favoloso. Paga 10 euro, potete raccolare a tutti, senza scattare la risposta, eccetera, eccetera, però non ci sono messaggi, ma i messaggi che faccio due volte, poi già una... Non c'è un messaggio, ce l'ho io quel contratto, 10 euro al mese, verso tutti, tutte le categorie, team, Wind, Vodafone, tutti, anche con i fissi, e c'ho però 300 messaggi solo, 300 messaggi, che io non li mando a nessuno, capito? Non li mando mai a nessuno messaggi, così uso sempre WhatsApp. Ma infatti, anche io uso WhatsApp. Per i messaggi non è che ti esista. No, ce l'ha fatto Liliana il contratto, io ci stavo pensando. Ha detto fatelo che conviene, tanto tu messaggi non ne fai mai. E siccome avevo caricato 20 euro su Vodafone, ha detto poi vado a perdere, il tipo mette, non è che sta detto, sulle 17 euro li metto, ma dai. Sì, sì, sì. Oh, Anna c'ha quello lì, anche io. Ilaria c'ha Vodafone, però ce lo deve passare anche lì a team. Capito? Mantenendo lo stesso contratto, lo stesso numero. Sì, sì, lo so. Mantenere poi devi pagare 23 euro per cambiare il contratto. Il primo sì, e poi niente, poi 10 euro, sì, sì. Contando che però ti danno anche la carica di 10 euro, Fai 23 euro, però devi contare che ti danno la carica di 10 euro, già nella scheda. Sì, sì, il netto è 13 euro praticamente, perché c'hai 10 euro di ricarica. Sì, sì, sì. Io lo ce l'ho un sacco di tempo. Addirittura mi hanno mandato un messaggio l'altro giorno che mi hanno aumentato da 2 a 4 giga. Addirittura, ma mi serve molto perché io ci sto più al telefono che al computer, non c'è niente. Se vado su Facebook, su internet, se vado solitamente dal telefono, capito? Sì, sì, se fai quel contratto ti passano da 2 a 4 giga, con mi pare un euro in più o 1,50 euro in più sulla ricarica, capito? E conviene sempre, io l'ho fatto e ce l'ho, anch'io ho capito, ne sto usando pochissimo, adesso ho imparato col telefonino e sto usando il telefonino, c'ho tutto lì. Sì, poi comunque mi saranno tutti, mi chiede la pasta per essere su questo, come la sono dimenticata, mi mandano questo numeretto, lo metto, e non va bene ancora, stavo per fare la cosa, l'ho preso tutto, perché già l'ho fatto al telefono, ho preso il telefono 2 secondi, l'ho fatto. Adesso anche al telefono mi sta chiedendo per ogni niente, meglio mettere la pasta, l'email, eccetera, eccetera. Io se non me la scrivo la password di Facebook, non so come attuare. Dimmi Pionce, sì, un pochino più forte Pionce. E la radio è più forte, il segnale è sempre quello però. Gaba gaba. Ma Gianni non lo senti per niente? Solo a me è forte. Lui è molto più sotto di me, tu uscire a Budejo. E cosa vuoi che ti faccia? Vabbè. Lascia quello allora, fino con quel microfono, quello lì qual è? Quello che avevamo attaccato, l'MB+4. E vabbè, lo metti al canale, a fortedine già frequenza. Questa è 27.075 la frequenza, capito? Lo metti così e basta, e lo lasci stare. Però puoi usare anche l'altro, non ce n'è problema. Già esci bene lo stesso, perché la radio è un pochino più bassa, capito? Sì, ma infatti, metti le batterie e poi provala. Avanti Natalino fa attendere, riprendi già. Non so se Marco è già arrivato a casa. Ma dove era Marco? Ma Patamone è andato a farci un giro. Io c'ero stamattina, ma è un po' quello. Però sta anche una bella tracciata a 160, qui ho mollato. Da dietro si ti becco, vai piano. No, io la mattina ho preso quella grande, mattina. Però devo togliere il bavetto perché l'avevo messo per l'inverno per andare al lavoro, che palla, capito? Perché per portarmi la roba, il cambio eccetera. Adesso invece sto andando in macchina. Non hai visto tu la grande che c'ho? No, che morte è questa? Avanti sul canale 10, ti chiama. Sì, sei Eugenio. Sì, Eugenio, sta rientrando dalla zona tua, la Valle d'Uria. Ciao Eugenio, rientrando? Dove sei? Marina di Sorso? La bomba, sì. Santiago 7, Radio Super 5, vai già. Ehi, hai Eugenio? Mi ascolti. Ehi Eugenio, mi ascolti? Doppio luna per questa parte, buonasera. Ehi Eugenio. Sì, che ti ascolta. Ascolta me da qua. Secondo me sta facendo qualcosa, ma non ho qualche cosa, perché non è possibile. Pensavo, di tua parte, è possibile non mi ascolti a me quella zona. C'è zona mia. C'è quella zona lì, del mare, è tutta zona mia, capito? Sono io. Va bene, dai, va bene per la parata. Ma già ti ascolto lo stesso. Non ti ascolto molto alto come segnale, ma guarda che può. No, Santiago 5, 6, arriva qua. Guarda che te l'ho mandata. Ho fatto il movimento già, perché balla troppo con quella moto, capito? Te l'avevo messo per andare al lavoro, perché mi era un bel utile, capito? Perché a volte mi portavo anche il pranzo, eccetera. Quelli non c'hanno posto per niente, capito? Toccava stare con lo zainetto. E allora ho messo il movimento, però adesso glielo tolgo. Tanto la uso solo per passeggiare, per dare qualche tracciata ogni tanto. Che moto? VR6. RSI, ma dove è Yamaha? Ehi, è Yamaha, non lo vedi. Non lo vedo perché il telefono è scarico, ce lo scarica, Claudio. Te l'ho chiesto per quello perché non lo vedo. Adesso poi magari vado e vediamo un po'. Gava. No, ma questa che ti ho mandato? Ehi, no, il Kawasaki, non lo vedi il Kawasaki, il R6M. Non vedi la scritta, è grandissimo. È R6. Cazzo, l'hai compresa ancora, hai scaricato molto il telefono, non si accende proprio. L'ho messo in carica adesso perché poi era proprio scarico, non vedo nulla, adesso si quando carica, non lo vedo. E ce l'ho, dove state scorsa ce l'ho trovato, questo ne avevo due di moto. C'avevo 600 lo scooterone. Capite? Una bella moto questa. No, avevo togliere il bavetto, ti ripeto, perché mi dà un bel fastidio, poi è fermo il bavetto. Però lo usavo per andare solo al lavoro e basta, capite? C'avevo neanche 5.000 km. Poi è parcheggiata sotto casa, sotto il poggiolo praticamente. Mi hai detto che ti dovevi prendere il Dimash, in un corso, su un'offerta che ci ha per lì. Tra le mani, hai detto che ti prendevi questo Dimash, poi non lo so che cosa, di un collega, non mi ha detto una cosa del genere. Già, non mi ha aspettato, servivano soldi e se l'ha venduta. Sono andato da Omar, c'aveva questa occasione e mi ho preso quella per fare sì. Chiedi della Omar se vuole la mia, se me la vende. Perché no? A me ne ha venduto due Omar di moto. Me ne ha venduto due, gli ho versato il coso che poi non la vende, se l'ha tenuta lui. La cosa, l'onda che lo scooter che ci avevo, capito? Guarda lui e se la tiene lui perché è nuova, ma sta usando con la targa a prova. La sto usando con la targa a prova. Ne ho passato quella e mi ho preso questa più grossa. E poi c'è lo scooterino per la città sempre. Certo che sì, glielo dico, intanto domani mattina vado a prendermi il caffè. E glielo dico. Marco non è andato lì, è andato a casa, ha detto che riprendeva la casa, adesso arriverà, già rientra adesso, Natali, e rientra adesso, già rientra subito, andai già. Scusami che ce la possiamo aver fatto, che voleva roba, pensavo che avesse, che volesse di lui che mi stava facendo più guai, allora aspetto tutto. No, vuole fare una cosa in casa, adesso non c'ho stampante, io c'ho un computerino piccolo, la stampante non ce l'ho più. Oh. Ma tu avevi l'amplificatore attaccato? Prima sì, pensavo di Genio, quando stai? Gava. E oggi è quasi arrivato. Il cane ci ha portato lei? L'ha portato Maurizio, mio nipote, l'ha portato verso le 4, è salito verso le 5, ci ha fatto un paio di giro lungo. Di solito fa tutto il giro, passa dallo spadone in porta a casa, fa il giro in via Prati, poi riesce la via Mors. Mi sa che lavoro alle 8, quindi lo devo portare io. Esce alle 7 e mezza, 8 meno 20, capito? Vabbè, ci ho mangiato questo più di Ilaria, più le ha da mangiare Ilaria, c'è sugar. Io ne metto mezzo di patè, no? Di carne con le crocchette, te ne apporto uno, quindi 250 grammi di carne. E altre 250 ne ha messo di crocchette, mamma mia, lui più ne ha e più mangia, c'ha la pancia che non vuole visto, adesso è qua, a testa bassa non ci fa manca camminare. No, io sta mangiando poco, ma ho capito perché c'è qualche cane in calore nell'intorno, c'è qualche cane in calore, sta sempre uno si deve mugliando che vuole scendere, capito? E sta mangiando molto poco. Stamattina ho fatto un bel pranzo, gli ho messo carne macinata di cavallo, un po' di pasta e un po' di crocchette. Non ha toccato nulla, manco l'ora se ne è andata. Poi, verso sera, verso le 5 e mezza così, è andato a mangiare un pochettino, ma non assai. Prima ci va a provare tutto. Vuol dire che è così. E allora, quando sono in calore, mangiamo un po'. No, grazie a Dio Filippo, no. L'appetito già non le manca, poi adesso gli ha tolto il cortisone, il veterinario, vediamo, anche perché il prossimo mese c'è una gara molto importante, ci sono i campionati sardi ci sono, ho visto Coristano, e quindi Mario ha detto al veterinario controllarlo tutto, perfetto, e che sta ingrassando troppo, non vorrei che arrivasse a... al prossimo mese con qualche chilo in più, te manca camminare la vasca. Mio se la sta facendo addosso, se non l'ho portato molto tardi. Sì, ma fare tutte le cose, bravo, riduci un po' il cibo, non datemi molto da mangiare, se vuoi per farli ingrossare ne mangiamo bene. Non sai cos'è, che lui si svuota dietro e quando fai le mostre il cane vuota dietro, è brutto, capito? Quindi è meglio che ci abbia qualche chiletto in più, che sia più pieno, perché lui non è che si gonfia, si allarga ancora di più, capito? Però dietro rimane più gonfio, amico, capito? Dietro nella schiena e tutto. Se si sfossa è brutto quando vai a fare le mostre. Infatti adesso lo abbiamo, adesso è martedì, c'è appuntamento con Monica e poi intanto mi pare a metà aprile la gara e lo farò lavorare la prima, seconda settimana di aprile, vediamo, dovrebbe fare tutto bello pulito, lucido. E Marco, Gianni e basta. Adesso c'era appena un certo abuso, ma intanto non lo sentite. E poi c'è Natalino. Natalino, mica c'è Marco. Sì, ciao Marco. No, c'è anche Eugenio che sta rientrando a casa, Marco. C'è Eugenio che sta rientrando verso il portone. Sentite Natalino che ci ha detto Marco, sta arrivando. E passo anche qua, futtidini, non te ne fare una colpa, e passo anche qua. E beh già, ti è piaciuta la moto? No, guardate ancora, già la guardo, perché è scarico, l'ho trovata appena la messa, non si è malato di tutto, perché non andava a segnare di nulla, manco della carica, e solito quando l'attacca fa qui, non l'ha fatto manco questo rumore, si è malato di tutto, lo già detto. E se è venuto quello di su e voleva stampare il pugno con il computer mio. Praticamente devo fare quella di cose che non c'è stato male. Ehi, non lo volete perché è brutto, ma l'ha detto anche Eugenio, vuol togliere il bolletto. Cappa. Però d'inverno è comodo, capito? Oh, sono tanti sperati, così è. Poi vabbè, con te quattro, dai. Ma siamo sempre soli, ma vabbè, c'è un genio che non lo sento. Marco, ti ho detto, meglio soli che male accompagnati. No, qua, qua, qua. Non ce ne frotta, è un cacchio a noi, degli altri. Chi vuole entrare può entrare. Se no, mi c'è il canale 20 aperto. Ah, di anch'io a favità. Già lo sai, io qui in lingua, ma io, poco mi napputi a me. Meglio così. Le porte si siano divise. Porca dai. E beh Natalino, lo senti a Marco? Bravo Natalino, sei grande. No cia cia cia, no truffaldinos. Anche io sento qualcuno qua di qua, stessa cosa. Vai a parlare con gli amici tuoi, vai. Perché la gente non sa dove andare e si rifugia tutta lì, Marco, capito? Ah, Lucia. Ma infatti. Lo so. Cappa. Così è. Oh, se sentite casino c'è il phone acceso, E mia figlia sta facendo i capelli alla mamma, quindi non sono rumori strani, sono rumori sottofondo. Anzi, aspetta che tolgo il processore. Oh, ecco qua, tolto il processore, così non sentite niente. E dove? Ma non era tornato il patamo? Ma la figlia non a casa, però... Ma non sapevo, anzi la potevo andare stamattina a vedere, a curiosare, boh, Gianni. Poi io avevo fatto un giro con l'Iliaco, l'ho detto in moto, però non mi sa, non so dove stia. Ma la rotonda proprio nella spiaggia di fronte dove è cambiato il polpurello. C'era una pedina, c'è più baracca a Platamo, non se ne può entrare dentro qualche baracca. E allora perché non si impicca? Si appende lì al palo che c'è della rotonda, si impicca. Ma se no c'è quell'istituto per anziani, va di lì. E beh, se ne può andare alla torre aragonese lì, alla torre di Platamo. Almeno è coperta. Meglio, così ce la togliamo a mezzo ai piedi. Ma lo sai, vai 80 anni stai ancora protestando. C'è una galeotta, hai fatto un casino di Gesù Cristo e vuoi che la regione o il comune ti dia anche la casa. Ma vai a finire in galera, se no impiccati. Allora si è pagato il debito, mi hanno fatto il nuovo campo nomadi di Trunco Reale, va lì e chiede ospitalità. Anche se la trombino pure. Sì che c'è Marco. No, nel senso che facciano po con la tromba lì, che ce la cantino. Allora, Gianni lo per Roma, io fa 15 anni un vicino me. Ciao Marco lì, verranno anche i tempi tuoi, fregatene, diglielo a Babbo, che lui non era di meno quando era giovane come te. Ciao. Allora, ciao Marco lì. Ma quando mai, allora vicino c'era Marco, almeno fa 8 anni, lascialo stare il ragazzo, mi sono finiti i tempi della gioca. E c'è già la mappa, non è bambino. E allora appunto, lo c'è lì da pa, e allora, e Marco lì, è un po', è fatta, è giusto, vesci, anche io ho 14 anni, 15 anni, va via alla barbettina. Solo è un casino perché se te la fai adesso, mamma mia, diventi un coniuge. No, Marco è molto feroce, quindi c'è da molto forza la barba. Bene, fa il pizzettino come il tuo. Io ho la barba, amici. Io ho la barba già da un paio di mesi. Ho la barba, tutta bianca, sembro padre priore il truffatore. No, a me non piace la barba perché mi dà pulito prima cosa e poi secondo loro non mi ci vedo, sembro sporco quando ce la barba. Ah, io già mi ci vedo, già è pulita la barba, ben messa, va bene così, cambiare look. È uguale a mio fratello lo stesso, è brizzolato con la barba bianca, io meno brizzolato di lui, però la barba ce l'ho bianca lo stesso. Una frutta. Va bene così. No, a me la prima settimana mi ha dato prurito. Poi adesso che è lunga non me ne dà più prurito, capito? È normale. Vabbè, vuol dire che a Natale se non sappiamo dove prendere sarebbe un chi vegani, con lo giacco vola, ma sai canta niente di culo durante lo giacco. Mi tardone, tutto, già, non si butta più niente. E anche a me come sto vicino. Adesso lo vogliamo la per fa. La storia è questa qua che mi dice, ma qui non ce la faceva più a sostenere tutti i regali che doveva portare, quindi è caricato, ma buon Natale per aiutarlo, capito? Mamma diceva, ma buon Natale può interrare i regali. E la per fare passare il cubo. Italiano, sa di cosa? Cosa già? Santa Claus. Ah, ma così si chiama, ma Santa Claus? Ah, da noi corrisponde a San Nicola. Bene, merda. Sta attento a non sbagliare, eh. Allora San Nicola, e poi c'è San Camillo e San Sebastiano, Tu sei di sempre barricato di me. E allora? E poi se non c'è San Sebastiano, c'è Bancali. Nord e sud. Da chi? Stava no, ho capito. Ma ne affido, quello che modulava, che questo non c'ha più baracca. Non ci sei andato a trovare la nuova locale? No. Che sta per te locale dentro le sacche? Dentro le sacche? C'ha un circolo? Ah sì, gli avevo mandato anche gli auguri a Natale. Sì, me l'hanno detto, non sono accanto a conoscere la Portosi, da un bel. Non so, da mio fratello è buco, ma non sto uscendo già. Male, bisogna uscire. Via. E anche se c'è dopo poco, con questo orario di lavoro che sto facendo, che finisco alle 3, che se finisco alle 3, arrivo a casa alle 3 e mezza, cucino, faccio, tutto, draghi, si fanno sempre di più. No, ma poi già, lo sai. Sia tu io, vabbè, non posso uscire perché sono in malattia, quindi uscire la sera dopo le 7, non ando a loro, assolutamente. Stasera, meno male che mi sono ricordato, sono stato uscendo. E invece mi sono già alle 7 e un quarto, vado ancora a portare il cane, a me uscire alle 8, non ando più a loro. Meno che non siamo qua a Sassari, così, tra amici, eccetera. Uscire con Anna a quell'ora, no, neanche lì esce. Uscire si esce presto, capito? Cosa fai? Esce alle 4, alle 5 che essere a casa, no? Poi c'è una settimana che non è rientro al lavoro, vuol dire iniziamo a uscire la sera da. Ehi, io mi sono, domani sono ancora in malattia, se non lo dico. Martedì mattina c'ho la visita, quindi non sono neanche a lavoro martedì. Penso che comunque non mi faccia rientrare, perché il 20 devo fare la visita al collo. Quindi, secondo me, se ne va tutto male. Spero di no, perché mi sto stufando a stare a casa tu. Come parlare di visite, perché sono un mese che sto facendo visite pagando tutti i bambini, che sto facendo tutti i bambini per evitare di stare a fare figli, ospedali, questo e quell'altro che l'hanno fatto lì. Ho fatto l'elettrocardiogramma, ho fatto il colon doppio, e poi adesso devo fare quello puristica di visita. Al cuore non mi hanno trovato nulla, però con coloro che l'hanno fatto al 20% un'arteria scritta nella gola. Ah, ho capito, quello duccio. No, io l'ecodoppio è andato tutto bene, sono a posto. Però devo fare l'ecocolla e me l'hanno rinviato al 20 o al 21 mi fa. Quindi non rientro sino a quando non mi dicono che tutto a posto. Infatti sono coperto fino a lunedì, fino a domani, poi martedì finisce la malattia, però martedì mattina devo andare dal medico, c'ho già l'impegnativa pronta, non deve solo timbrare, capito? Per il 20 fare la visita, e quindi mi darà sicuramente fino al 20, fino al 21. Mi la facciamo per bene, perché lì, se stai bene è una cosa. Magari ti ha fatto testo l'altro giorno, questo signore si è chiamato per accarezzato, si è curato, perché ti ha buttato la papa in faccia. No, prima volta che io Filippo a passeggio e non faccio il tempo a dire no, non tocchi che la mamma, che è vero che sei Filippo, tutta la mamma e la mano che no, ma tutto c'è scosso, capito? Ha fatto se la faccia la mamma proprio la faccia la tagliata in pieno, mi scusi, ma no, ma poi l'animale non c'è problema, ma poi c'è fatto le file di la cavalla. Perché c'è questo che le sta fischiando la cinghia nell'alternatore, sembra che sono io che sto fischiando. No, infatti io mi porto sempre un pezzo di scotte, se no nel caso qualcuno lo tocca e lo tenga, si pulisca le mani, perché c'ha sempre la bava sotto, Filippo c'ha il muso più barribalato, mi capite? Del tuo, e quindi c'è sempre la bava. Sì, questo non è già pare tequila e bonetti. Infatti io, quando prima di portarlo su a casa, caio! Fai, dai, allora ti faccio cosa fa? Tu le vedi di schiuma a destra e a sinistra, io mi sposto. Non so, ma anche in testa lo fa un po' di ballo, quando specialmente lei in galera sicuramente l'ha pisciato qualche cagna in calore, infatti è un modo di dire, si ne impara dalla mamma, invece non è solo un modo di dire, il cane che succede davvero di fare la mamma, che mi sente di fiato di rifrimire in calore. Marco, ma già a casa sei arrivato, Natalino! Sicuramente è andato da Natalino, Marco, stava arrivando. Ah, è vero che stava andando da Natalino, dimmi più non c'è. No, il segnale è sempre uguale, la radio è più alta adesso, più. Eia, eia, andà bene, andà bene. Ehi, sono malattia perché ho avuto un problema alle corde vocali o più. E sino a 15-20 giorni fa non avevo manco voce, adesso piano piano sta tornando. E già ce n'è sempre più, ce n'è sempre di problemi. Adesso devo, come si dice, fare un'altra visita e poi me ne rientro al lavoro. Non me posso stare a casa per eterno, capito? Andà bene, andà bene. Lascia tutto così che stia andando bene adesso. Sì, io mi ricordo quello che c'era lo spuntino lì a Budugio. Quello che non beveva niente. Sant'Antonio mio. E ci siamo visti con Cisco un giorno che ha portato i campionamenti lì a Concorreale, all'impianto, ci abbiamo fatto la chiacchierata, però non la posso mandare nulla, cioè per dire. Avrei potuto chiedere se stavi bene. Capito? Però già ci vediamo con Francesco, è un mio collega, quindi è chiaro che già ci vediamo. Lui è sempre lì a passare. E andrà bene, andrà bene. È importante che ci siamo. Non c'è problema più. E mi piace che non senti a Gianni a cipicchia. Avanti già. Sì, non è zona mia quella lì. Nel paese è difficile. Prova a vedere se non c'è, mi ascolti, guarda, 1, 2, 3, prova. Ma intende già Gianni, Pino? Se sei andato? No, non ti sente, non già. Non ti sente. No, ma mi ricordo un tempo, arrivava, forse a Pattara, forse a Pattara, con cosa, con Monserrat. Arrivi, Borgio è un po' più difficile, un po' più tosto, vabbè. Andà bene, Vinù. Vediamo dove abbiamo perso due amici. Natalino e Marco, ci siete? Vediamo, non le faccio smontare. Cosa c'è, Filippo? Che ore sono? 7:25 sono. Perché mi stai rubando 5 minuti? Oh, c'è un grito e l'ingendemi di bene. Un orologio è questo cane. Un orologio. Mamma mia, come sto? Oh, Claudio, mi sa che sta avanti, perché io dovrò anche accompagnare Marco. E poi. Ti dico buonanotte, ci sentiamo domani. Buonasera a tutti, saluta al Pinocchio, mi dispiace che non ascolto. Dai, non aspettare mai la partita. Ciao. Ciao già, e anch'io vado a portare il cane, dai, intanto Marco da Natalino ne approfitto. Finuti, saluta Gianni, dai. Chiudo che vado a portare il cane, ok? Già, Pavino, altrettanto, dai, già, saluta Pinocchio. Ci sentiamo dopo già, se coincide, dai. Io vado a portare il cane, ne approfitto che ancora c'è bella serata. A dopo. Marco, ci sei? Marco, lui è andato a trovare Natalino, mi sembra. E io ho messo la cena fuori. Adesso arriva quasi 9 qua, quindi arriva molto meglio. Cosa andiamo a fare? vogliono dare input alla gente, io glielo ho detto, detto di l'antenna a vento, di metterla fuori, arriva 8 cubichi a 9, e lei è un posto molto valoroso, però almeno adesso è, insomma, è presentabile, dai, si può, possiamo sentirlo bene anche se c'è QRM. Beh, ci vorrebbe autoscala, non è passa, ecco, dico, ci vorrebbe una scala da 9 metri, però adesso vediamo quando diventa lavoro, cosa ci abbiamo disponibile noi in officina, no? Penso che quelle scale ce le abbiamo da 3 metri nel mesto, capito? Noi abbiamo le, a volte dei pozzi che sono a 7-8 metri, quindi tra l'appoggio e tutto mi pare che siano a 10 metri quelle scale, 3, 6, 9, 12, e da 4 elementi sono da 3 metri, quindi a me bastano 3 elementi, 3, 6, 9, e carico il camioncino e lo facciamo sto belletto lavoro, se no mi rimane così, esistendo la comodità degli altri, no, non è un terrazzino, lui è a terra, c'è 9 metri di facciata, sono 3 piani, capito, quindi per arrivare su bisogna, per staffare, per mettere staffe, bisogna avere una di quelle scale, comunque devo andare a verificare perché mi voglio rendere conto di persona qual è il lavoro difficile, così difficile da fare. Un'antenna, non solo per capoccia, non so neanche dove abita io, Gianfra, me l'ha detto lui, com'è la situazione. Beh, Giucariello. Pertanto, buonasera. Sì, buon cuore. Che meno. Ciao Natali, ciao Gianfranco, avanti. Marito Gianfranco, mi arriva bene, sono Natali. Vuol dire che adesso tu per lui sei coperto qua. Fa da 8 a 9. Avanti Natali, Marco ha dato via. Sono Natalio qua, 9 più 20. Ma non senti a me o Natalino Gianfranco? No, Natalino Gianfranco, non sente. E poi auguri avrai il chivi tu. C'è 9 qua, figurati da te, 9 più 20, anche la Marco deve arrivare un po' forte, ce l'avete vicino a voi. No, allora te lo dico io perché arriva forte, perché lui c'ha l'antenna sopra la brittella. Come appoggio cosa c'ha? Una caldarella? Come appoggio ha la paletta. Con la caldarella? No, la paletta la ricorcia. Ora gli intese va a lì, santa tra le mie lacrime, mi parlava lì. Peggio era da che Pirigna che... Movimento 5 litri. No, chi sa, un'altra ancora, un'altra medicina, peggio era da che Pirigna. Avanti, ciao fra. Lì per Gianfranco a vedere quanto ti senti adesso, se c'è il val di polo vai. Ho visto, avevi sentito 7 e mezzo a Canica, quindi Natali, ma tocca se Marco cosa ha detto? Le stazionali misurate le avete, e appunto lascialo uscire, sei quasi 9, cosa vuoi? Va bene, non lo forzare, poi vediamo cosa si può fare, capito? E bello Garie, come sta mamma? Già sta meglio, da. Abbiamo eliminato le punture, quelle, le parino, se la conosci. Sta camminando, si alza, tranquilla, prima era un problema perché non andava a sedersi in bagno, alzarsi non ce la faceva, aveva bisogno di una persona. Infatti stavo già... sono andato lì da qui come per quelle, prendere quelle maniglie, no? Che si attaccano al muro, io sto per attaccarsi e sollevarsi, ma grazie a Dio ce la sta facendo da sola. E poi ha eliminato il medico due medicinali, diciamo che mi ruba tempo là, perché se devo fare un lavoro come faccio? Sono obbligato a rientrare e che gliele facciano. Poi il resto è un gioco alla fine, dai. Meglio così, dai, salutamela, meglio così. Piano piano, un po' di pazienza e già si fa tutto. Ok, mi allontano un attimo, Gianfra, mi allontano un attimo, arrivo subito. Sì, anch'io, non sono dimenticato, sono vaccinato. Va bene, siamo ad Arezzo. Come siamo adesso? No, già andavo, no? Sì, che mi stai, mi si sta sganciando il capo dal palo. Praticamente c'ho il capo, essendo grosso, con il vento balla, appena sono lì, solo il piede ci ha attaccato. E poi dall'altra parte mi si è sganciato dal muro, un casino. Sono messo una fascetta di quelle a trassetto. Mi si è sganciato da lì. No, e stiamo permettendo, sai come ho fisso un con le fascette nel palo. Eccomi. Ia. Capito, hai sentito cosa ho detto, sì. Le fascette. E dico, il palo mi si è sganciato da, va, il capo dal palo. Come si dice? Adesso domani mattina a tempo permettendo, sai come ho fisso di nuovo, bene? Mi faccio la curvetta, no? Sì, ecco la curvettina, se ce la fai a salire. Le fai, le metti una fascetta, capito? Perché magari c'è una pesolante per quello che ha con il vento che ha fatto, l'ha fatto, ma la fascetta non la sa. Eccomi! Ma infatti la tisolante si, col tempo si secca, poi c'è la fascetta dura di più, ciao Marco. Ehi, ciao a tutti, finalmente a casa. Oh, stasera fuori sono. Bene, bene, c'è anche Natalino? Aspetta che ci ho visto un segnalone. 9.15 pieno, 9 più 15 pieno. È cambiato dalla notte al giorno. Eia, hai visto? Seguendo le istruzioni di zio Claudio, ha migliorato parecchio, parecchio. Caspita, 9.15, pensa che con l'antenna esterna sul tetto saresti arrivato 9 più 30. Adesso è una buona via di mezzo, dai. Non è così di a me. C'è Santiago Nove qua, guarda che dove lui arrivare qui è un bel coperto, capito? Un bel coperto di Santiago Nove, 9.20 a Lucca. E doppio rum, lo sentiva? Sì, sì, Santiago Nove quasi, come me, 8, con picchi quasi a 9. Ottimo, più che ottimo. Sul 2 non lo so Natali. Potrebbero essere 8, come potrebbero essere anche 10, non lo so. Ci vuole un wattmetro messo e misurato, un buon wattmetro. No, non c'entra niente quello lì, Natali. Io per esempio il mio smitter sale a quasi 9.20, però questo baracchino da 8 watt. Avete parlato in due. No, quello è così, quando è a 4 watt è Santiago 1, quando ha 4 watt. Quando ha Santiago 2 non lo so, potrebbero essere 8, chi lo sa. È un baracchino particolare. Questo che ha 5 watt sale a 9 più 10, ma è tutto, tutti gli smitter che ho sono diversi, dai. Tutti segnano a parità di watt cose diverse, quello non è un problema. La parte buona è che arrivi ottimamente, e questo è buono. Davvero, vieni ad ascoltare Claudio. Ma quante volte gli era ripetuto Claudio prima di farlo? Gli ho detto, però lui diceva non ce l'ho appiastra. Anche non avendo la piastra ha trovato una soluzione, l'attacchi con due fascette al tubo, ne metti un barilotto sotto per connettere il PL, il gioco è fatto, però l'antenna sta irradiando, sta lavorando bene adesso l'antenna, non può lavorare così dentro casa, come fai? Figurati tu, meglio così, così sta facendo massa sul tubo, va bene Natalie, ottimo lavoro, no, non c'è una cosa momentanea, quindi non te la futti nuda, se è bella, davvero, l'importante è che ti sentiamo, non ce ne frega niente. Tutto sì, se ti sentiva piccolo in macchina a ottava, adesso puoi dire che insomma ti sentiamo tutti dentro Sassari. Se non ti sente il portatore, c'è pazienza, l'importante è che ti sentiamo noi qua. Ah no, e vale, te la temo, ne vado 4, 2 dubbi telescopici a 4 metri e tirate un'altra gabbiuria a vedere che tirato, chissà. Oh, comunque a me sembra più di 9.15, cioè controllando il segnale di Claudio, no? E di Lucca, in proporzione, Natalino allora è 9.20, a questo smitter, capito? Buono, buono, non tocchesemi, non tocchesemi. Non tocchesemi, ma io avevo lasciato tutto così per adesso. E poi una tariffa, vediamo cosa, adesso quando ho detto lavoro, ho detto guarda, se c'è questo cacchio di scala, mi lavoro una domenica a Mazzano perché devo prendere il camioncino e bisogna che ci sia il mantenitore a riposo, capito? Quindi mi devo un camioncino e poi lo riporto lunedì mattina. E si fa questo lavoro perché sennò è un casino, esistendo da uno e all'altro, si fa punto e basta. Adesso già è migliorato tantissimo e puoi fare questo con tutti dentro Sassari e vicino a Sassari, secondo me. Nel frattempo ci organizziamo. Aspetta, pensa, puoi fare questo persino con quelli del 20. Mantavino può andare dove vuole, lo sa che io a queste cose sono contrario e tutti possono venire qua a parlare. E ora di venire anche stamattina che vanno in capo tutti quanti, capito? Quindi, però sono delle scelte, facciano quello che vogliono. Io qua sono e come vedete, tutti i giorni, tutti i santi giorni facciamo queste due fesserie, due stronzate, ci divertiamo, entrano tutti. Quindi per me non è cambiato assolutamente niente, poi loro vogliono parlare sui venti, vanno a parlare sui venti. Che problema c'è? Non si critica mai nessuno. L'importante è che ognuno faccia proprio questo e pensi a se stesso, no? Ai cazzi degli altri. Bene, bene, sono veramente contento. Oh, io, è stata una domenica impegnata, dai. Sì, invece di stare a casa tutto il giorno come ha fatto mamma mia, vedeci Barbara D'Urso. Eppure, vabbè, Barbara D'Urso sarà come sarà, no? Però una bottaglia da lì. Marco, dimmi quello che ti piace, a me mi è antipatica. Io a volte davvero, il primo pomeriggio perché sono lì nel salone, svegliato a ponerla nel divano, però quando mia moglie chiude gli occhi e tan cambio. Capito? Perché è cambiato? Se stavi dormendo? No, no, sto guardando. Ma tu non piaci di tu. No, vabbè, a parte l'antipatia, cioè, ma Bottarella non gliela daresti. Purché sia truccata, perché se la vedi struccata te ne vale un raio. È brutta, già l'ho vista, l'ho vista. Mi è bastato vedere Maria Marini all'Isola dei Famosi, cioè, no, al Grande Fratello Vitto e senza trucco, per carità quanto è brutta. E se no oggi hanno fatto vedere a Cecchi Gori, il Sugar, una palla di lardo è diventato. Oh, la curva del benessere. C'è una faccia più grande di Filippo, che mamma mia quanto è feo. Ehi, ehi. No, sono contento di essere uscito perché se aspetti, se ascolti mamma, anzi ha detto ormai sta calando il sole, come dire, noi sì, invece sono uscito. La faccia sua mi, esci se mi sente, la faccia tua ma non sentono. Quindi la ce la fa, vuol dire non ne ha voglia di uscire. Mi prendete voi 5 minuti, mi assento per andare in bagno. Ehi, ehi. Ok, vabbè Luca, tutto bien? Come va, come procede? Tutto bene. Mi sono rientrato poco fa. Perché sono andato via da qua a mezzogiorno e 20 più o meno. Poi siamo scesi in campagna a pranzare, bella giornata. Poi da lì siamo andati a farci un giro lì alla Marina di Sosso e poi beh, io accompagnavo a casa, ci ho preparato la cena, ho quasi mangiato, sto mangiando un po' di frutta e poi niente, a nanna e poi domani devo punti a capo. Ehi, ehi, aspetta che ho fame d'aria, c'ho sempre fame d'aria, lo sai. Mi devo controllare il livello d'ossigeno. Controllo l'ossigeno? No, che ogni tanto parlando mi viene fame d'aria, capito? E io ero alla rotonda, convinto di non trovare un'anima, pieno di gente, le macchine ovunque erano. anche della rotonda dove c'erano i blocchi per non accedere, anche lì macchine, moto, il bar preso d'assalto, soprattutto la gelateria presa d'assalto. Caspita. Poi da lì sono andato ad Auchan, anche ad Auchan, un po' di gente, brusio, questo brusio che ti martella il cervello. E i sassaresi fanno così domenica, o vanno alla rotonda o vanno ad Auchan, o tutte e due. Perché certe volte le facce che vedi alla rotonda le ritrovi da Auchan. E non fanno altro i sassaresi, quello fanno. Chi proprio vuole sprecare benzina va persino ad Alghero magari a fare la passeggiata. Allora io sono sceso dalla marina, però ho notato, vabbè, partiti pieni, c'era un po' di gente, più avanti ancora dove c'è il bar Camboni, era chiuso con questo nastro, cioè con le macchine, ma c'era tipo la macchina della Formula 1, e di, come si chiama? Di Magliona. E poi altre macchine, 112, poi c'era una 500, quel modello non vecchio, il modello dopo, e varie macchine, 128. Eia. Invece a Platamona, all'altro bar, quello non alla rotonda, andando in fondo per tornare indietro, c'era una Ferrari parcheggiata, c'erano tutte le scimmie intorno guardando. Adesso inizia a cambiare l'orario, poi le giornate iniziano a essere più calde, e quando c'è il periodo di andare al mare si va al mare, e cosa ci vuoi fare tanto? Se no ti rilasci un po', parlare del mare già fa bene. Niente, avanti, non so chi è che è rimasto, Natalio ci sei? Allora, ebbè Natalio, novità per il comune, nulla? Sono 4 anni, 5 anni il fremolo, sono 4 anni, c'è quelli fissi? Beh vabbè, già aiutano quelli che arrivano con il gommone. Noi non contiamo niente, capito? Loro contano di più di noi, vabbè, tanto. Avanti, Gaudio. Lunga è questa pipì, Comunque lui l'hai visto il mare oggi? Era una tavola, olio era, un bijou da vedere, bellissimo. Lo so, l'ho visto, ma lì alla marina è tutto pieno di cose, di... come si chiama? Di alghe, un bel in spiaggia, pieno. E a quanto mi hanno detto, dice che lì, quello di giorni fa, quando c'era fatto brutto tempo, che il mare era molto agitato, c'era un bel di gente che facevano canoicchi, lì in spiaggia, lì se ne hanno fatto un bel. Ottimi per la pesca, mi. Andare a pescare, canolicchio. C'era anche un pescatore alla rotonda, però delle alghe non ci ho badato, mi è sembrato di no, non credo di aver visto alghe. Bello però, bello. Sono pigliato il caffè, no, col caffè, il cappuccino freddo, capito? Cioè con latte freddo, mi. Non bere bevande troppo calde. Bello. In compagnia di una ragazza sarebbe ancora più bello. Porca miseria, mi devo organizzare. Adesso io devo organizzare la canna alla pesca, avanzo. Sta spendendo molto. E così ora fanno un paio di lanci. Questo... adesso appena inizia il tempo bello, là. Ci provo. Poi ci prendo qualcosa, bene, adesso ho pazienza. Dai, io mi aspetto 5 minuti, vado a portare il cane, 5-10 minuti, e porto il bau bau. Riprendi Natalia. Ok, avanti. Ti sento alternata, ciao Gianni. Buonasera anche a te. Ti ascolto un po' maluccio, avanti. Ma sei in zona, qua, al monte. È bello, profetta. Ciao da parte di Marco, dai, non ti sentivo da un bel po' di tempo. E fai bene. Eia, sì, non ti sentivo da tanto, poi come ho sentito Gianni non ho agganciato, poi mi è venuta la... mi sono ricordato, dai, compagnia di Luca, Del Monte, Natalino da Centro Storico, Zona Mercato, e Claudio si è rientrato, Claudio ho finita la pipì. Sì, sono qua, chi è? Gianni dalla stazione, il nominativo non me lo ricordo. Gianni dalla stazione. Oi, Gianni, lo profeta, non ti sei più sentito. Oggi arrivi, dai, ti ha superato Natalino. Però tu, il tuo segnale è 5657, già va bene, già, non c'è problema. Sì, ma tu lì, però dovrebbe lasciare, ragazzi, che è arrivata gente ed è quasi pronta la cena tra l'altro. Ok, quindi vi saluto. Dai, ci sentiamo domani, ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Marco, Gianfranco che è all'ascolto, Elio che è all'ascolto, insomma tutti quelli del canale 10. Un saluto a tutti, circolare, no qua qua qua, no cia cia cia, eccetera eccetera, non aggiungo altro. Ciao Marco, riprendi. Ehi, a Claudio, buona cena, buon intrattenimento, buon tutto. Guarda, anche da me è arrivata la cena, con la differenza che il mio è il pranzo, dai. Da stamattina avevo fatto colazione, non ho più mangiato nulla. E quindi sto pranzando, Gianni si scandalizzerà, però è così. Sto pranzando adesso, sono stato tutto il giorno fuori, non sentivo nemmeno il bisogno di mangiare, non lo sentivo molto forte, però mi tocca, dai. Quindi saluto anch'io, ciao Gianni, ciao Luca, purtroppo sei entrato un po' tardi e eravamo quasi tutta la sera in radio. Ciao Natalino, tutti quelli all'ascolto, Gianfranco, eccetera, dai. Riprende Natalino per i saluti. Ciao Luca, ci sentiamo, dai, a me è Budelli questa cosa. Deia, sì, io non ho orari, non sono come quegli uomini che, per esempio, alle 9 di sera devono mangiare, devono, se no cassa il mondo, io mangio quando ho fame. E sono andato a Platamona, sono andato a Dorsia, insomma ho fatto giro largo, molto largo. E quindi adesso sono tornato, adesso mangio, senza nemmeno troppa fame. Invece Luca del Monte ogni tanto lo sento, ti ricordi Lu? Quando entravo dicevi, cazzo, vaggio una fame! No, io non ho mai fame convinta, ho solo un po' di appetito, ma niente di che. Riprendi Luca, dai. Luca non riprende, ok. Comunque non si dice buon pranzo, si dice di traverso. Ah, tipo caprese, buonissimo, buonissimo. Anche se io avrei fatto lo stesso senza il pane, però. Senza il pane, solo pomodoro, mozzarella, origano, quello che si mette nella caprese. Non mangio molto pane, mangio più fette biscottate, quelle cose così. Basta che non sia roba gommosa. Appena sento il pane è un po' passato, guai, guai, guai. Ok, dai, procedo. È budegna questa cosa, ma procedo, dai. Sentiamo domani. Entra un po' più spesso. Ah, però hai detto che sei, ma ti sei stabilito in campagna, in pianta stabile, diciamo. E infatti, se la campagna non è troppo lontana dalla città, dovresti arrivare, insomma. Poi se l'antenna è esterna, sul tetto, meglio ancora, arriverai sicuro. Insomma, non so la zona nemmeno. Per esempio, mia zia abita poco prima dei Bancali, ero curioso di sapere se da lì arriva a Sassari. Solo che lei non è, vuole sapere di antenne, no? È proprio contraria, non capisce, non può capire, dai, è donna, è donna. Eia, è tutto sa provare, tutto sa provare. Vediamo, sì, la corte è Palmadula, adesso. Se in alto vedi un pezzo di città, sì, grosso modo dovresti coprire, almeno un pezzo lo dovresti coprire. Per esempio Claudio sicuramente ti sente perché lui è in alto, io non lo so. Dovresti fare una prova almeno con un'antenna veicolare, come se fossi in macchina, a vedere cosa succede, dai. Eia, ecco, vedi, il bello è che negli anni 70-80 i baracchini erano fatti in Giappone. In Giappone, adesso purtroppo li fanno in Cina, ogni tanto li fanno in Malesia, Taiwan, c'è stato tutto un periodo, prima in Giappone, poi Taiwan, adesso Cina, e qualcosina la fa anche la Malesia, per esempio questo che sto usando io è fatto in Malesia, è un 3009, un Superstar 3009, va abbastanza bene, dai, non è malaccio, anzi è buono, è bello. Deia, ok, dai. Va bene Gianni, ci sentiamo nei prossimi giorni. Era posto, ma dai. Condor, era sì, il vecchio nominativo Condor. A me sai cosa mi hanno affibbiato di nominativo? Per via dei mini orari da pipistrello, no? Che esco sempre quando è buio, che mangio orari notturni assurdi. Ratta pignara mi hanno affibbiato, che in algherese vuol dire pipistrello, ratta pignara. Seia, mi hai ricordato anche una cosa, Barrotto. Negli anni nostri, ai tempi di quella moto tua, della mia, c'era un metallaro che si chiamava di cognome Barrotto. Io lo chiamavo Babarrotto. Sì, ormai questi metallari di allora si sono tutti civilizzati, chi più chi meno, dai. Chi più chi meno. Purtroppo gli anni avanzano, la vecchiaia incombe, eccetera, eccetera. Ok. Ciao Gianni, ci sentiamo. A proposito di moda, ti avrei chiesto una cosa, ma non so se è il caso. Ehi, ehi, io stavo un po' esitando perché qua è calda la roba da mangiare. No, ti volevo chiedere solo, secondo te che bene o male hai conosciuto gli ambienti, no? Rock, metallare, eccetera, ma secondo te gli emo sono i legittimi successori dei dark, diciamo l'evoluzione del dark, può essere. E naturalmente non parlavo musicalmente, ma non so come aspetto, come sai, sempre tristi, sempre in paranoia, bianchi di viso, ma sembravano un po' un'evoluzione. Bene, bene, perché i dark si sono estinti, come i paninari per fortuna, i paninari te li ricordi. Per carità, avevano fatto pochi anni e poi si sono giustamente estinti, come dico io, dai. Vabbè già, dai, ti lascio andare, io mi dedico alla pappatoia, ciao. Buona serata, ben sentito e alla prossima.